notte, logorando strada, ha lavato il cielo ed ora è ad asciugarsi i muri, come quando i miei si vomitavano parole ed allora mi mandavano a giocare fuori. Tu non ci sei, tu non sei più con me. Il mio amico sta dicendo che mi vuole bene, ha bevuto troppo e non ricorda più il mio nome. Le finestre e occhi spenti stanno già sognando mulinelli di cartacce e le panchine vuote. Non avrei voluto essere il primo della classe, non avrei voluto mai portare i primi occhiali. Ho paura di specchiarmi dentro una vetrina e scoprirmi a ridere di me e dei miei pensieri. Sotto il tacco delle scarpe mezzo consumato, un giornale sfegazzato pieno di pedate. Grande prima eccezionale per il fin dell'anno, avventura, sesso e una valanga di risate. Quante volte ti ho pensato sulla sedia di cucina, quante volte ti ho incontrato fra le cicche che spegnevo, quante volte ti ho aspettato, quante volte ti ho inseguito, quante volte ho perso te. Oh, e come gridavo sul cavallo del barbiere, il mio amico si è fermato e sta scacciando un sasso. Lui non ha una donna perché ha l'alito cattivo, soffre un po' di tenerezza e parla con se stesso. Guardo le mie dita gialle, sono tanto stanco di sputare i mozziconi di tutta una vita. Giro, salto e ballo come un orso ammaestrato, come vorrei fare a pezzi quella luna idiota. Quante volte ti ho cercato, quante volte ti ho trovato, quante volte ho perso te. Me ne vado nella notte, logorando. Ah.